Brava, dica. Buonasera. Un radio da questa zona collinare, buonasera, salutoni cordiali. Serviva un controllo di San Diego Radio, come sta uscendo da quella tua zona lì. Ok, a te il cambio, buonasera. Vabbè, tu sei a Sorso, però non ti sei presentato. Ah, a Sorso? Negativo, io non sono a Sorso, sono a Ugiro. Ok, mi pare che non hai ragione, giusto. Uranio comunque, uranio dalla collinata di Ugiro. Ho detto altura, pensavo che avessi capito, invece no, vabbè, comunque è uranio da Ugiro, dai, buonasera. Ciao uranio, ciao, buonasera. Scherzo, scherzo. Tino Muscolo qua da questa parte. Stai andando bene uranio? S9, dai, Radio 5. Ah, ok, perfetto. Anche tu non scherzi, anche tu qua sei 9, diciamo, è una modulazione di 5, però spettacolare la tua modulazione, bellissima, bella, chiarissima e acuta, bella, bella, bella, bella, complimenti. Ehi, vabbè, sempre la solita, dai, sempre la solita da ormai qualche anno, va bene, Uranio. Come mai qua, questa canaletta di passaggio? Di passaggio solo, già ero anche prima qua, ma non c'era nessuno, infatti stavo spegnendo perché ero sul 4, stavo facendo delle prove con un altro collega e quindi dopo sono passato qua e stavo spegnendo tutto. L'ho sentito, diciamo, a te, quindi ho chiesto come stavo uscendo. Dai, niente di particolare, vabbè, anche tu stai arrivando bene. Ok, perfetto, a te il cambio. Va bene Urania, dai. No, io sto aspettando diciamo un altro corrispondente, però in altre frequenze, poi magari se coincide andiamo sempre in questo canale, però in FM, perché ci piace di più, dai. Ah, il FM è più potente, è bello, dico, ti credo. Ok, va bene, perfetto. Io chiudo qua e passo in QRT, dai. Grazie del controllo e delle due chiacchiere. Per me, diciamo, QRT. Ci sentiamo, buon proseguimento di serata allora e buon divertimento in FM. Ok, ciao ciao. Sì, va bene, perfetto, dai. Ci si riascolta, ciao. Buonanotte quando la farai. E tutte le cose belle, dai, tante cose belle. Alla prossima. Ciao Rania, ciao ciao, buonanotte. Ok, ciao ciao. Ora, ora, ora, ora, uno, due, prova.